Stamattina, quando leggevo per prepararmi alla Santa Messa queste letture, sono rimasto colpito da tante parole, ma non posso dirvele tutte in pochi minuti. Ma una ve la voglio dire. Il Signore Gesù ebbe fame. Io ci ho pensato, ci sono stato a lungo sopra e in me è nata una preghiera che voglio condividere con voi. Casomai possiate imparare anche voi a tramutare in preghiera la lettura della parola di Dio. Oh Gesù, mi colpisce vederti così profondamente uomo che anche tu hai fame. E mi ricordo che hai detto anche altre volte, ho sete. L'hai detto alla Samaritana al pozzo, l'hai detto sulla croce, ho sete. E allora capisco che non è solo una fame fisica la tua, ma è anche una fame e una sete delle nostre anime. Avevi sete della fede della Samaritana, avevi sete sulla croce della nostra salvezza. E allora ti ringrazio di questa sete che tu hai e la sento dentro di me, la sento come che anche noi abbiamo sete di te. Ma nello stesso tempo sento che in questa tua sete c'è dentro anche la sete del mondo. Nella cappella di Madre Teresa di Calcutta c'è una tua immagine con accanto a questa parola, crocifisso o sete. E Madre Teresa lo interpretava, andiamo per tutta Calcutta a dissetare te, Gesù, che rivivi nei poveri, che rivivi nella gente che sta morendo. Ha sete di te la gente, Signore, e io vorrei anche con la mia vita dissetare questa gente, sia nei suoi bisogni fisici, sia nei suoi bisogni spirituali. Aiutami a capire che devo dar da mangiare e da bere alla gente, ma devo dare anche te, perché chi beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che tu darai non avrà più sete in eterno. E ancora, oh Signore, capisco che tu mi dici che la gente ha sete di me, ha fame di me. Quando ero in seminario, i miei maestri mi dicevano, diventando preti, dovete lasciarvi mangiare dalla gente. E allora insegna ancora a me, sacerdote, insegna ai tuoi fedeli a lasciarci mangiare dalla gente, a non dire sono stanco, sono deluso, sono abbattuto. Andate a casa, ho già lavorato tutto il giorno. Signore, insegnami e insegna alla mia gente, nella mia chiesa, a lasciarci mangiare da te. Ma ancora non ho finito di meditare su queste tue parole, o sete, o Gesù, perché le riferisco a me. Questo aver fame, questo aver sete tuo, e anche il mio aver fame, aver sete di te. Mi accorgo che niente mi riempie, né le lodi, né le soddisfazioni, né i complimenti, tantomeno le cose materiali mi riempiono di te. Solo tu sai riempire, perché anch'io ho fame e sete di te. Perché dopo che ho mangiato, dopo che ho bevuto tutte le soddisfazioni di questo mondo, che peraltro sono scarse, però sento che ancora dentro sono vuoto. Ma per aver fame e aver sete di te, scopro, entrando nella chiesa della mia vecchia parrocchia, scopro Maria, seduta in trono, che ha te, Gesù piccolino, al suo seno destro. E distinto, dico Maria, al tuo seno sinistro metti me, perché anch'io ho fame, ho sete di Gesù, attraverso il latte che tu, Maria, mi dai. E così sia.